pacifico per nostra gran fortuna, possiede un flauto magico che tutti fa incantar. Se senti quella musica ti fa passar la luna, e i tuoi bollenti spiriti di colpo fa calmar. E davanti al sole e al mar ti ven voglia di cantar. Parapapapà, tutto è magnifico, papà pacifico, papà pacifico. Parapapapà, tutto è magnifico, papà pacifico, magnifico papà. Tre bei fratelli discoli giocando a far la guerra, tre simboli agitavano, ognuno di un color. Siccome si picchiavano da rimaner per terra, il buon papà pacifico, ragazzi, disse allor: i colori siano tre, però insieme tutte e tre. Parapapapà, tutto è magnifico, papà pacifico, papà pacifico. Parapapà, tutto è magnifico, papà pacifico, magnifico papà. Parapapà, tutto è magnifico, papà pacifico.